Dopo il grande successo del microfono che scotta e la sola dell'avvenire, finalmente in onda su queste frequenze. sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Parla per Con la partecipazione di Santa Milva Daceri e il premio Nobel di femminismo e pratica Io voglio praticare, Zarina, sponsored by Big Mama Simona and Francisca. Autonarrazione. Parla per Pia. Esperienze. Parla per te. Racconti. Parla per te. Voci. E parla per te. Vita e miracoli. Parla per te. Lavori, sogni e bisogni. Parla per te. Impegni, impicci e capricci. Parla per te. C'è stata la fase dei vari lavoretti durante gli studi, tra cui vabbè, il classico babysitteraggio la sera, di fine settimana per dei gruppi che si riunivano, religiosi, poi nelle case tutti i giorni prendendo il bambino da scuola, portandolo a casa, e in alcuni casi anche con la collaborazione domestica. E poi altri lavori un pochino più particolari, come per esempio la vendita porta a porta. Questo però già quando stavo all'università, facendo la babysitter, poi mi è capitato di cercare altro e c'era questo annuncio su Portaportese che diceva che si potevano vendere dei prodotti porta a porta, bastava farsi trovare in un certo punto della città. Io conoscevo poco la città perché comunque avevo sempre abitato in periferia con pochi collegamenti, quindi ti prendevano con questo camioncino, non mi ricordo più se da stazione Termini, non mi ricordo, e ti portavano in quartieri mai visti prima. E mi ricordo perfettamente il discorsetto che ci fecero prima di darci questo borsone con questi prodotti per la casa scadenti, con un prezzo fisso per cose che costavano sicuramente meno comprandole nei posti giusti, nei negozi giusti. E ci fecero questo discorsetto che era rivolto soprattutto alle donne presenti, che era un gruppo di persone tutte diverse per età, per condizione, per bisogno, eccetera. E dissero che noi avremmo certamente guadagnato di più se ci fossimo intrattenute con le persone che ci aprivano la porta, che però ci dovevamo ricordare che eravamo lì per vendere questi prodotti. Poi ti davano questo borsone con un numero fisso di prodotti che veniva contato e controllato per bene prima e ti davano le indicazioni dell'orario nel quale nel primo pomeriggio della mattina ti saresti dovuto far trovare per il ritorno. E il lavoro era delicato nel senso che tu dovevi entrare nei palazzi, valutare velocemente all'apertura di una porta se ti potevi fidare a entrare, se ti invitavano a entrare, a prendere il caffè se te lo offrivano, se ti conveniva puntare più sulla tua condizione di bisogno oppure se potevi spingerti il prodotto cercando di abbindolare, tra virgolette, la persona che si interessava a qualcosa in particolare. Ed era una cosa, insomma, particolare e delicata. Poi quando ritornavi c'era l'apertura delle borse col controllo di quello che era stato venduto, di quello che rimaneva, ti toglievano tutti i soldi di mano e poi ti davano quello che era da parte tua. Ed era una cosa abbastanza pesante, faticosa, squallida pure come lavoro. Possiamo sempre vivere, possiamo sempre farci fuori, anche se siamo soli, possiamo sempre scegliere, possiamo sempre farci suore, possiamo sempre farci. E ho fatto fatto l'esperienza anche di appassionarmi al contatto telefonico, che a me piaceva molto, mi piaceva moltissimo lavorare al telefono, penso di essere portata per questo tipo di contatto, nel senso mi prodigavo, mi impegnavo e diciamo valorizzavo il contatto con la persona, a volte anche impegnandomici troppo, per cui andavo chiaramente contro gli interessi dell'azienda che invece doveva maturare un certo numero di interviste. Poi c'era anche la pagella della giornata, per cui c'era la volta in cui venivi anche valorizzata. Lei oggi ha fatto tot contatti e questo era l'incentivo per scatenare la competizione, no? Che avrebbe dovuto scatenarsi fra noi. Ho un ricordo carino di una ragazza molto alta, molto coatta, che era molto simpatica, sembrava un po' una di queste che è andata all'Isola dei Famosi, a uno di questi reality, non mi ricordo, il Grande Fratello, una molto coatta, molto rozza di linguaggio, che è veramente incredibile sentirla lavorare al telefono, ma era simpatica e diceva che lei apprezzava molto il lavoro nel call center perché le permetteva di non lavarsi, e cioè che poteva andare anche trasandata al call center perché nessuno comunque la giudicava dall'aspetto. In effetti non c'era una grande attenzione a noi come ci presentavamo, eravamo controllate al telefono, ma neanche più di tanto, perché poi comunque erano cose in cui quello che contava era fare, cioè raggiungere i livelli di produttività attesi, quindi non importava il come. E poi telefonavi in tutta Italia, telefonavi in paesini sperduti della Sicilia, dove veramente era difficile farsi pure capire, magari dovevi fare un questionario completo sui consumi o sulle abitudini rispetto alle scommesse, al gioco, quindi veramente erano esperienze interessanti rispetto ai dialetti. Poi ti capitavano le interviste, quelle sex, in cui il maschio di turno solo in casa cominciava magari a masturbarsi, e poi a fine di queste telefonate c'erano sempre i commenti fra quelle che non erano in quel momento impegnate in interviste, con questi tabulati sempre più scarabocchiati, perché dovevi provare e riprovare finché non beccavi qualcuno a casa. Credi, possiamo sempre, chiedi, possiamo sempre, credi. Possiamo sempre, chiedi, possiamo sempre. Sono le classiche situazioni, queste ormai diventate da manuale, della pagella, del rendimento, per cui c'era la volta in cui venivi esaltata dalla capetta di turno, me la ricordo ancora, la capetta di turno particolarmente ben vestita, che si aggirava tra di noi, e la volta invece che magari qualcuno veniva coltato perché non ha ripreso, comunque sollecitato, perché non aveva raggiunto un livello di rendimento sufficiente, e all'epoca ancora eravamo pagati all'ora, non a contatto utile, quindi c'era ancora un meccanismo un po' subdolo per cui l'incentivo non si traduceva direttamente nel pagamento, oggi è ancora peggio. Tutte quante come il dimensionamento generale a tutti i livelli di noi ragazze sia portato avanti a tutt'oggi e quindi continua ad essere un grave problema dell'azienda, che non si rende conto che con una politica del genere va sia contro i propri interessi e quindi assume degli atteggiamenti che sotto il profilo di mercato, di marketing, non hanno senso, dimensionandoci e cercando di metterci proprio all'angolo. Noi abbiamo quattro colleghe che prima svolgevano un ruolo fondamentale organizzativo, di coordinamento, di informazione anche tra le varie parti del sistema, che oggi sono tenute come soprammobili in uno stanzino. Senza finestre, oltretutto. Ma così, senza senso. Senza senso. La punizione, insomma, perché io sono una di queste quattro, noi eravamo le coordinatrici, e quindi in quanto tale ci sarebbe aspettati dall'azienda un servilismo totale, completo. Questo non si è verificato perché fortunatamente, e questo forse è anche un po' la singolarità del nostro gruppo, c'è stata un'estrema solidarietà tra di noi e quindi noi ci siamo inserite all'interno delle rivendicazioni, ritenendo che comunque le rivendicazioni delle ragazze erano legittime, giuste, e che in un certo modo riguardavano anche noi, perché riguardava tutto il gruppo, quindi non ci siamo sentite qualcosa a parte. Questa cosa ovviamente ha ingenerato dal punto di vista aziendale una reazione non ottima, perché ovviamente abbiamo un po' scardinato il sistema normale, cioè quello che se tu hai un 10 euro in più del tuo collega devi tenertelo stretto e assolutamente devi fare di tutto per non perderlo. Anche se questo di tutto implica la perdita anche di dignità, perché quello che ci viene richiesto poi alla fine. E niente, noi siamo state forse ancora più colpite rispetto alle altre, perché siamo state completamente, come diceva Antonietta, messe all'angolo, e ci fanno lavorare dentro una stanza di 2 metri per 1 metro, senza finestre, e praticamente non abbiamo più il ruolo di coordinamento che avevamo prima, e la discriminazione e l'attacco verso di noi è quotidiano da parte del livello dirigenziale, ma anche a livello di figure di coordinamento che erano omologhi nostri, ovviamente tutti uomini, e che adesso vogliono a tutti i costi mantenere quel ruolo di preminenza rispetto a noi, dicendo anche smarcatamente che è anche una questione che riguarda anche il sesso, perché comunque è un po' universalmente riconosciuto il fatto che noi dovremmo avere quel ruolo di coordinamento, anche perché siamo le più anziane, siamo addirittura più anziane della Famous Open, perché alcune di noi, come ne dicevo prima, hanno cominciato addirittura nel 2000 e questa azienda invece esiste dal 2003, quindi nonostante il nostro percorso lavorativo sia stato estremamente travagliato, in una logica di giustizia ci dovrebbe essere riconosciuta un'anzianità che di fatto non ci viene riconosciuta né a livello legale né a livello operativo, diciamo. His head. Volevo infatti precisare anche un'altra assurdità che fa parte sempre di questa logica del demansionamento, e cioè il fatto che queste quattro colleghe si occupassero attivamente non solo del coordinamento e di una parte della contabilità, ma addirittura dell'ufficio informazioni alla stazione Termini, che è stato chiuso e mai più riaperto, e quindi il servizio soffre anche della mancanza di un punto di accoglienza per i turisti, quindi non si capisce come un'azienda preferisca prendere queste decisioni che sono assolutamente illogiche sotto il profilo del marketing pur di punire quattro nostre colleghe. È qualcosa sì. Della punizione dal mio punto di vista assurda, perché noi abbiamo rivendicato i nostri diritti, non è che ci siamo scagliati contro qualcuno o contro qualcosa, noi ci siamo semplicemente mobilitate per far sì che la legge venisse rispettata, non abbiamo chiesto qualcosa in più, spesso le rivendicazioni mirano a chiedere qualcosa in più rispetto a quello che si ha. Noi, le nostre rivendicazioni sono sempre in linea di ottenere il rispetto della legalità, e questa cosa è assurdo che venga punita in un'azienda poi che è un'azienda parapubblica, perché anche se si sottolinea sempre che la Trambus e la Trambus Open sono delle SPA, sappiamo tutti quanti che le decisioni poi vengono prese a livello comunale, quindi dal mio punto di vista bisognerebbe fare ancora più attenzione alla cultura che si instaura all'interno di queste aziende. You know, some guys just can't hold their arsenic. He had it coming, Mr. Rosen, she took the power and it tried. si sta verificando esattamente la situazione dell'anno scorso, ovvero dobbiamo passare a un tipo di contratto diverso e ci stanno completamente ignorando per quanto riguarda le trattative, perché loro scelgono i loro interlocutori, non accettano ancora il fatto che noi siamo organizzati in un certo modo, siamo organizzati con i COBA, preferiscono contattare sigle sindacali che hanno 7 iscritti piuttosto che contattare noi che ne abbiamo 60. E questa cosa viene fatta con il silenzio di tutti, con il placet del consiglio comunale, dell'assessore alla mobilità, perché lo abbiamo chiamato in causa l'anno scorso, alla fine è sceso, ha chiesto la gente di risolvere la situazione, però nuovamente si sta verificando una situazione del genere, non abbiamo ancora risposte dalle istituzioni, quindi io credo che la cosa scandalosa è veramente su cui intervenire è proprio quello, va fatta un'azione culturale su queste aziende, soprattutto perché rispecchiano la mentalità che c'è in Italia, non c'è niente da fare, cioè, se un consiglio comunale accetta che venga messa in campo una discriminazione così forte verso le donne, un atteggiamento che si ripropone di anno in anno sempre più esasperato per dominare, perché questa è la questione, cioè, io credo che veramente si vanno a toccare delle cose molto profonde, proprio a livello culturale e a livello forse, non so, antropologico se vogliamo. Per 2 anni ho fatto l'operaia in una cooperativa per pulizie, dopo 3 mesi, no 6 mesi, mi hanno fatto un contratto a tempo indeterminato, e ho lavorato 2 anni, avevo uno stipendio, mi pagavano 6,77 euro l'ora, e era un lavoro, facevo 2 ore al giorno e attaccavo. Un periodo l'ho lavorato dalle 7 alle 9, un periodo dalle 6 e mezza alle 8 e mezza. E mi hanno spostato in diversi luoghi perché creavo problemi, perché mi capitava spesso di fare ritardo sul posto di lavoro o non andare a lavorare affatto e chiamare e dire che stavo male, tutte stronzate, quindi mi hanno sempre spostato, cioè mi hanno fatto tipo una forma di mobbing, per cui magari mi telefonavano il giorno prima e poi per dirmi che dovevo andare a lavorare da un'altra parte. Come lavoro era abbastanza, nonostante fossero 2 ore, era un lavoro abbastanza pesante, perché parte va bene la gestione magari io degli orari, perché dovendomi svegliare alle 6:30 magari poi non dormivo abbastanza. Comunque obiettivamente, al di là della mia insomma incuria e sul fatto che prendessi poco sul serio, oggettivamente c'erano delle difficoltà, nel senso che erano soliti prendere degli appalti, che la cooperativa era solita prendere appalti che poi non poteva gestire a livello di personale, quindi c'erano situazioni con, non lo so, tipo 8 piani da pulire e 5 donne, 5 operai che dovevano in 2 ore pulire 8 piani di ufficio, per esempio. Il trend più o meno era che le più anziane erano più tranquille, cooperavano di più, mentre le più giovani erano molto più come dire, competitive, diciamo, sul lavoro, per quanto fosse un lavoro in cui c'era poco da competere, nel senso che sono operaia delle pulizie, però tendevano ad essere meno consociative, ecco. E Niente, poi vabbè, tutto un ambiente abbastanza strano e poi andando via poi ho scoperto, perché vabbè poi non è che mi sono impegnata molto, non ho fatto nessun tipo di attività se non denunciare mentre sto là, magari parlare con l'altro operaio e far presente che comunque, nonostante io non fossi una persona ligia al dovere, comunque le situazioni oggettive non erano decenti, insomma, appunto ho detto prima, pulire, cioè bisognava lavorare il doppio di quello che era stabilito. Poi c'era una modalità di chiedere le cose, cioè abbastanza, cioè come se fosse gestita a livello di amicizia a volte la cosa, nel senso che ti chiamavano e ti chiedevano un favore o di sostituire una e di fare 2 ore di più il giorno dopo. C'erano queste modalità strane su cui le altre operaie rimanevano più tranquille, io non, cioè a me hanno smesso subito di fare queste cose, perché non è che ti pagavano degli straordinari, però magari il giorno prima ti chiedevano se potevi lavorare un'ora di più perché non c'era quella, cioè per la loro malorganizzazione ti chiedevano come se fosse un piacere personale di far cose che non rientravano nei tuoi doveri, insomma. E poi vabbè, cioè, innumerevoli altre piccole cose di questo genere anche nel quotidiano, quindi cioè ritrovavi l'operaia che non avendo il materiale se lo comprava da sola, tipo non ti arrivano i guanti e te, cioè, invece di rifiutarti di lavorare te li vai a comprare da sola, i sacchi per l'immondizia, per dire queste. C'era un approccio al lavoro che cioè, mi ha fatto riflettere molto lì dentro, perché capivi molto il fatto che comunque, oltre al fatto che non fosse un lavoro che offrisse chissà quali prospettive, per cui si innesca un meccanismo di servilismo e di conflittualità all'interno che non è motivato da niente, perché non è che c'è poi uno scalino da salire, voglio dire, non è diventi capo operaia, cioè, voglio dire, era abbastanza, e questo nelle persone più giovani, era nelle donne più giovani, perché poi ovviamente una cooperativa di pulizia la maggior parte, cioè no, erano tutte donne praticamente, a parte chi poi forniva i materiali, così, quello è un altro discorso, però sul posto di lavoro eravamo tutte donne. E niente, c'erano questi episodi di ogni tanto, vabbè, poi magari anche cose che poi non ho saputo dopo e non mi aspettavo, tipo un'operaia che come era tranquillissima, che invece mandava fax in azienda scrivendo il mio numero di matricola, che è una cosa per cui io avrei anche potuto denunciarla, perché è una cosa che è scritta sulla busta paga e lei non aveva il diritto di vedere la mia busta paga, per esempio. Quindi tutte queste cose in cui lei mandava questi fax in azienda scrivendo il mio numero di matricola e dicendo questa arriva in ritardo e rompe i coglioni, perché vabbè io comunque facevo qualche macello, perché così. E poi vabbè, poi sono venuta a scoprire altre cose divertenti, imbarazzanti, che vanno al di là del lavoro, che là dentro, cioè, erano reputate normali, tipo prestare operaie chiamate per prestazioni sessuali e storie del genere. comunque il rapporto tra donne sul lavoro, il rapporto anche con le colleghe, per quanto mi riguarda, è un rapporto buono. E in alcuni casi, diciamo, complicato, forse un po' difficile, però quello che ho notato, quello che ho vissuto prima persona è che comunque parlando o pacatamente oppure a volte anche arrabbiandosi, però riesci sempre e comunque a trovare una sintesi, cioè le tue posizioni e le posizioni dell'altra non sono sempre e comunque confliggenti, si riesce a trovare comunque una sorta di mediazione per andare avanti e quindi anche a ristabilire, parlando e spiegandosi, a ristabilire delle condizioni di lavoro buone e ottimali. Cioè io penso di aver costruito tutti questi anni nel mio posto di lavoro delle relazioni anche molto forti e so che posso contare su alcune persone e le persone sanno che possono contare su di me e ho notato appunto che anche con altre colleghe con le quali non ho un rapporto continuativo, un grandissimo rapporto, però c'è la voglia comunque di confrontarsi, di ascoltarsi anche, e quindi non di prevaricare l'altro oppure di far valere sempre comunque le proprie opinioni. I colleghi maschi, uomini, è più difficile perché primo non sanno ascoltare, secondo non riescono proprio a relazionarsi, tutte le volte che si affrontano degli argomenti di un certo spessore o seri, io avverto che diventano, come dire, si impiegano, cercano tutti i modi per sottrarsi, cercano di fare le battutine così quasi per stemperare una tensione che vivono soprattutto loro, no? Che infatti non c'è, e però cercano poi sempre di spostare, diciamo, il discorso su altri argomenti che loro conoscono e quindi è difficile. È un'altra cosa che ho riscontrato facendo anche sindacato, è che le donne sono molto più coerenti e riescono anche a mantenere la parola data, cioè la loro posizione. Invece con gli altri, con i colleghi sindacalisti uomini, no, cioè, ho visto che c'è invece una propensione anche a cambiare parere a seconda appunto della posizione assunta poi dal direttore di turno, dalla parte politica, e c'è questa incoerenza di fondo, ma c'è questa anche scarsa importanza, cioè loro non danno importanza anche ai comportamenti etici. Cioè, l'etica non rientra nel loro vocabolario, non tutti, perché non voglio generalizzare, però che ne so, per farci un esempio, noi ci sono dei sindacalisti che prima tu sei l'UGL, poi sono diventati la CISL, poi sono diventati la UIL, poi sono diventati, no? Cioè questo cambiamento, ribaltamento continuo e totale, per cui ti chiedi mai quali valori li muovono, quali valori li spingono, no? Quali principi sono la loro base. E quindi rimane un interrogativo, un punto interrogativo senza risposta.